Vi è un imperativo nella Bibbia che dobbiamo ricordare per una doppia ragione, perché è un ordine. E perché ci ordina di non dimenticare. Dimenticare è normale, solo Dio può ricordarsi di tutto. È normale, ma può anche costare caro. Se mi dimentico di mettere la benzina nel motore, rimango a piedi. Se mi dimentico di prendere la pillola per il cuore, mi può costare la vita. Proprio perché siamo inclini a dimenticare, l'Eterno Dio ha dato l'ordine di non dimenticare alcune cose. Noi dovremmo ricordare tutto quello che Dio fa e dice, ma poiché si ricorda che siamo limitati, atti a dimenticare, gli ordini stessi sono limitati in modo che ce li ricordiamo. In queste brevi riflessioni prenderemo in esame 8 di questi ordini di non dimenticare. Il primo lo troviamo nel libro dell'Esodo. Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. Esodo 28. Dimenticavo di precisare che gli ordini che l'Eterno dà sono per i suoi figli, perciò mentre l'incredulo può anche non ascoltare, un figlio di Dio diventato tale da adulto per la fede in Gesù Cristo non può ignorarli. Dunque il credente deve ricordarsi del giorno del riposo. Va subito detto che il termine ricordarsi nella parola di Dio non ha solo il significato di riportare alla memoria fatti o parole, ma anche l'atto di ubbidienza. L'ordine di Dio è che un giorno su 7 sia messo da parte, cioè santificato, per Lui. Quanta necessità ci è di ricordare, di ricordarsi, uso apposta questo gioco di parole, che dobbiamo dedicare un giorno alla settimana a Dio e pensare alle cose eterne. Purtroppo molti di coloro che si professano cristiani nel giorno del riposo, che può essere anche il lunedì per chi è impegnato in determinate occupazioni, si dedicano a tutt'altro fuorché a Dio e al suo regno. Il nostro Salvatore, Gesù Cristo, non cerca degli operai superattivi, ma persone che lo amano. Il lavoro per un cristiano non è un fuga dalle responsabilità, ma un mezzo per servire Dio. Un figlio di Dio non deve amare il lavoro più del datore di lavoro, perché verrebbe meno al suo obiettivo. Sarebbe come una mamma che ama più i vestiti, i giocattoli, tutto ciò che appartiene al bambino che il bambino stesso. Un secondo imperativo a ricordarsi lo troviamo nel libro del Deuteronomio. Ricordati di tutta la strada che l'Eterno, il tuo Dio, ti ha fatto fare in questi 40 anni nel deserto per umiliarti e metterti alla prova per sapere quello che c'era nel tuo cuore e se tu osserveresti o no i suoi comandamenti. Così egli ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che neppure i tuoi padri avevano mai conosciuto, per farti comprendere che l'uomo non vive soltanto di pane, ma vive di ogni parola che procede dalla bocca dell'Eterno. 8, 2 a 3. Arriva il momento per tutti di essere scoraggiati, delusi, perché le cose non vanno come vorremmo. La prima reazione è buttare la nostra fede alle ortiche, ma, in quel momento, con un colpo di reni della memoria, dobbiamo riportare alla nostra mente che le circostanze della nostra vita sono nelle mani di Dio per verificare la nostra fede, e quindi a noi resta di viverle di conseguenza. Le circostanze negative della vita, il deserto dei sentimenti, sono sfide per dimostrare a Dio, a noi stessi e al mondo, l'attendibilità delle nostre parole. Non dobbiamo dimenticarlo, l'altro imperativo lo troviamo nel libro dell'Ecclesiaste. Ricordati del tuo Creatore prima che il cordone d'argento si rompa, il vaso d'oro si spezzi, la brocca si rompa alla fonte e la ruota vada in frantumi al pozzo, e la polvere ritorni alla terra come era prima, e lo spirito torni a Dio che lo ha dato. 12, 6. Per tutti noi, a meno che non saremo presenti al ritorno di Cristo quando tornerà per rapire la Chiesa, vi è la prospettiva della vecchiaia. Chi vede passare gli anni si rende conto di essere sempre più limitato in tante cose, di non riuscire più oggi a svolgere i compiti come faceva una volta. Anche la memoria gioca i suoi scherzi, e questo è normale, umano. Proprio perché questa è la prospettiva di tutti. L'Eterno Dio ordina di ricordarci del Creatore, e cioè di applicare le capacità fisiche, intellettuali e morali, fin dalla giovinezza al servizio del regno di Dio. Per quanto mi riguarda, ringrazio Gesù Cristo, perché fin dal primo giorno della mia consacrazione a Lui ho dedicato con ardore tempo, denaro, la salute fisica e mentale. A distanza di anni sono oltremodo felice di essermi ricordato del mio Salvatore, anche se devo testimoniare che agivo per fede. Le difficoltà non sono mancate. Le sfide sono state abbondanti, ma la mia riconoscenza verso colui che è morto per me in croce era tale, il premio così grande, che ogni sofferenza del presente ne era minimizzata. Ricordarsi di Gesù Cristo, cioè servirlo, nel pieno delle forze della gioventù, è una benedizione che si può comprendere solo ad una certa età. Proprio perché non si può comprendere da giovani, la parola di Dio afferma che senza fede è impossibile piacere a Dio. Vi è un imperativo nei Vangeli che fa riflettere. Ricordatevi della moglie di Lot, Luca 17:32. Nell'Antico Testamento sono citati innumerevoli personaggi che hanno servito Dio, altri che lo hanno negato e rinnegato, ma di tutti questi Gesù Dio ordina di ricordarci della moglie di Lot. Che cosa ha fatto di particolare la moglie di Lot? Nel libro della Genesi si narra che l'Eterno voleva distruggere Sodoma, ma poiché c'era Lot, il nipote di Abramo, cercò prima di salvare Lot con tutta la famiglia. Due angeli costrinsero Lot, la moglie e le figlie, a fuggire da Sodoma, ordinando loro di non voltarsi durante la fuga. Ma mentre fuggivano, la moglie di Lot si voltò indietro e divenne una statua di sale. Gesù diede questo ordine nel contesto di un discorso profetico, invitando tutti ad ubbidire. Ma il significato dell'ordine va ben oltre. Non credo che la condanna della moglie di Lot sia proporzionata al solo fatto che si sia voltata indietro, ma piuttosto fu la ragione per cui si voltò indietro, che la fece diventare una statua di sale. Nel voltarsi indietro, la moglie di Lot ha evidenziato quanto tenesse alle cose che aveva, quanto soffrisse per ciò che lasciava, quanto amasse la vita che era costretta ad abbandonare. Proprio per questo, Gesù aggiunse, «Chi cercherà di salvare la propria vita la perderà, ma chi la perderà la salverà». Ecco cosa dobbiamo ricordare della moglie di Lot. Chi ama la situazione della sua esistenza senza l'intrusione dell'autorità divina, perderà la sua anima, ma chi per fede abbandona la sua autonomia nei confronti di Dio per sottomettersi alla sua volontà, trova la vita. Il gesto della moglie di Lot riporta alla mente ciò che Gesù disse a qualcuno che voleva seguirlo, ma con delle riserve. Gesù gli disse, «Nessuno che ha messo la mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio». Luca 9,62. Non solo. Chi si volta indietro per amare le tenebre più della luce ha delle gravi conseguenze, ma anche coloro che desiderano servire Dio con delle riserve. Gesù disse che chi compie un'opera per Dio e poi vive di nostalgie non è adatto al regno di Dio. Il regno di Dio esige una totale precedenza sugli affetti terreni, sui beni personali e sulla propria volontà. Dio è il grande rivale in amore. Se non è tale, non è veramente Dio. Nel Vangelo di Giovanni troviamo un altro imperativo di Gesù che, se dimenticato, è letale per la nostra fede. Ricordatevi della parola che vi ho detto, il servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Giovanni 15:20. Sexinquen è una cosa che dimentichiamo noi cristiani, è l'impossibilità di essere trattati meglio di quanto lo fu il nostro padrone. Facile dirlo, difficile ricordarlo. Abbiamo detto che ricordare non significa solo riportare alla mente fatti o parole, ma vivere di conseguenza. Così, ricordarci che non possiamo essere trattati meglio del nostro Salvatore significa accettare di essere maltrattati, scherniti, disprezzati e a volte uccisi. Questo è quello che Gesù ha voluto trasmetterci. Questo aspetto ci porta a considerare l'altro imperativo. Ricordatevi dei carcerati come se foste loro compagni e di quelli che sono maltrattati, sapendo che anche voi siete nel corpo. Ebrei 13:3. Se ci ricordiamo della nostra chiamata alla sofferenza, ci ricorderemo anche di coloro che soffrono causa l'Evangelo. È vero che non possiamo ricordare tutto, ma tra le cose che non dobbiamo dimenticare ai primi posti, devono esserci i nostri fratelli in fede, sofferenti. Soffrire con chi soffre ci rende simili a Cristo più di tante altre cose. Non solo dobbiamo ricordarci di chi soffre, ma anche di chi serve il Signore. Ricordatevi dei vostri conduttori, che vi hanno annunziato la parola di Dio e, considerando il risultato della loro condotta, imitate la loro fede. Ebrei 13, 7. È una buona e salutare ginnastica riportare alla nostra mente coloro che servono Gesù Cristo e considerare i risultati, o l'esito, della loro condotta. Spesso siamo inesperti per conoscere i risultati del nostro comportamento, non sappiamo se è più giusta una cosa o l'altra, perciò è più che opportuno considerare chi serve fedelmente Dio. Possiamo evitare tanti sbagli, perché, nonostante lo dimentichiamo, noi siamo soggetti tutti alla stessa legge, e cioè che raccogliamo ciò che seminiamo. È saggio ricordare questo. Infine, richiamiamo alla mente l'ultimo imperativo che ci perviene dall'ultimo libro della Bibbia. Ricordati dunque quanto hai ricevuto e udito. Serbalo e ravvediti. Apocalisse 3:3. Questo ordine racchiude mirabilmente tutti gli altri imperativi. Dio ci ordina di ritenere tutto quello che rivela al nostro occhio e alle nostre orecchie. Noi non possiamo vedere tutte le necessità, né udire tutti i richiami, ma siamo responsabili di ciò che conosciamo. O, come disse Gesù, nel giorno del giudizio renderemo conto di ogni parola oziosa che avremo detta. Il che vuol dire, renderemo conto di ciò che Dio ci ha rivelato e non lo abbiamo messo in pratica. In definitiva, saremo responsabili di ciò che non abbiamo ricordato. Marzo. Ellero.